Risento che la voce ogni attimo, mille brividi che mi fanno tremare l'anima. E mo che passo tempo e non la sento, mi mancano le carezze che faceva a me. Chissà se pensa a me soltanto un attimo, o se scorda di me rinda una lacrima. O stai che aspetto solo in un momento, stai esse pure in cielo. Dimmi che ha fatto male, che ti fa venire a pisare, che pure Santa Stefano aspetta. No, non ti arriva a permettere, tu bravo solo a far giangere. Dimmi che ha già fa, va venire una volta ancora, che stasera pure se va abbracciare. La voce malinconica, non capivo la soffrevo senza ricerca. Soffriva da morire senza lacrime. Ha capito troppo tardi chi sto male. E mi parla che la voce rinde lacrime. Ma vedo che sta vita così inutile, e mo l'aspetto sulla rinde suona, sperando di vederla a fianco a me. No, non sapeva permettere, lei che pregava ogni sera, chiedeva che sta vita senza catena. Ma tu che sta preghiera non mi ha avuto pena. No, non ti arriva a permettere, tu bravo solo a far giangere. Non riesco più a campare la vita intera, se una parte mezzo le piglia da ieri. No, non ti arriva a permettere, tu bravo solo a far giangere. Riesco a camba la vita intera, se una parte mi è fermata proprio ieri.